La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah. Figlio di un barbiere siciliano e di un'operaia piemontese, Giuseppe Culicchia, classe 1965, cresce al caldo di una periferia torinese popolata di intrecci culturali, storie e origini diverse. Torino, negli anni 70, è infatti il punto d'arrivo di tanti giovani del sud. Giuseppe impara ad osservare questi mondi e, ancora giovanissimo, comincia a raccontarli. Sarà il genio di Pier Vittorio Tondelli, però, a dare visibilità a Culicchia. Pier Vittorio Tondelli è stata la prima persona che ha mostrato di avere fiducia nelle mie qualità, anche se il suo intento all'epoca, quando uscirono i miei racconti pubblicati nella terza e ultima dell'antologia da lui curate Under 25 per la casa editrice Transeuropa, non era quello di trovare nuovi talenti letterari. In realtà lui a un certo punto lo scrisse anche in un'introduzione, una di queste tre antologie. Lui era interessato a così capire che cosa passasse per la testa dei ragazzi che appartenevano alla generazione successiva alla sua, e quindi più che scoprire nuovi scrittori voleva un po' così sondare il territorio. Poi in realtà il suo talento di scout evidentemente c'era, perché da quelle antologie sono usciti un sacco di autori che poi hanno continuato a pubblicare, da Gabriele Romagnoli a Silvia Ballestra, Guido Conti, Andrea Canobbio e altri. E io ho avuto la fortuna di passare di lì. Purtroppo l'ho incontrato di persona soltanto una volta, al Salone del Libro del 1989. Era la seconda edizione del Salone del Libro, io lavoravo lì. E tu conoscevi Tondelli, avevi letto? No, io non avevo letto niente di suo, però mi avevano detto che lui leggeva. Infatti glielo dissi anche, fui molto sfacciato, o comunque sincero. Dice: guarda, io non ho mai letto niente di tuo, però volevo che leggessi queste cose mie. E lui si mise a ridere e prese questo plico di fogli da tiroscritti e mi disse: ah, va bene, leggo, poi ti dico. E io replicai: ah no, perché mi interesserebbe capire se secondo te vale la pena che io continui a scrivere. In realtà erano 10 anni che scrivevo senza alcun risultato, e quindi cominciava a farsi un po', come dire, un po' frustrante la cosa. Lui si mise di nuovo a ridere e mi spiegò che non era certo lui che poteva dirmi se scrivere insomma fosse una cosa che valesse la pena fare. Mi disse: boh, se te fa star bene, se ti piace, continua. Io ho continuato, lui ci ha messo un po' prima di rispondermi. Io pensavo che quei racconti che gli avevo dato se li fosse dimenticati in treno, e invece non fu così. Mi richiamò, mi disse che ne avrebbe pubblicati 5 sui 10 che gli avevo dato. E quindi insomma io in ogni libro che pubblico c'è sempre un grazie a Pier Vittorio, perché è stato il primo a credere in me. Poi ho letto le cose che ha scritto lui, ho colmato le mie lagune. Lui aveva questo stile, questa curiosità, questa capacità di veramente guardarsi attorno e essere tutto fuorché uno scrittore ombelicale, così come spesso viene rimproverato gli scrittori italiani. E lui quella roba lì non lo era di sicuro. Uno dei suoi libri più belli è Un weekend postmoderno, lì dentro c'è veramente di tutto. Sì. Io concordo con quanto hai detto anche sul weekend postmoderno, anche su altri libertini, e poi anche soprattutto su questo ritratto dello scrittore che appunto spesso è ego riferito. Tu invece mi sembri proprio più coi piedi a terra, ben inserito nel contesto. E questo ti facilita o ti rende le cose più difficili? Bah, di sicuro mi facilita quando la mattina mi specchio, ecco, questo senso che sono sempre io, non sono cambiato, e chi mi conosce da prima sa perfettamente che le cose stanno così. Magari può essere un po' penalizzante nel momento in cui invece ti rendi conto, entrando nel dorato mondo delle lettere italiane, che più indossi la maschera, più te la tiri, più ti atteggi, e da un certo punto di vista più la cosa rende, perché comunque è così. ma non sono capace di farlo, non mi interessa. La storia di Giuseppe Culicchia passa sempre dalla realtà. Il primo libro, col quale diverrà famoso, pubblicato nel 94, si intitola Tutti giù per terra. Il protagonista è Walter, un ragazzo di 20 anni che vive e guarda il mondo degli adulti riconoscendo di fatto a se stesso una precarietà quasi pericolosa, ma anche unica salvezza. Un libro al quale il regista Davide Ferrario si ispirò per il film con un giovanissimo Valerio Mastrandrea. Torino, 13 ottobre 1996, ore 14:45. Eclissi di sole, il mondo si ferma. Ore 16:55, il mondo ha ricominciato a girare. Che palle. Vaffanculo! Era tutto un complotto. Mio padre, la colazione, la scuola, quelli sul tram, quelli a piedi, i marciapiedi. Tutti con lo stesso obiettivo, rovinarmi l'esistenza, fregarmi. E io cercavo di fregarli a modo mio. Come? Ero libero. Libero! Libero nel senso che non avevo un cazzo da fare, ecco. Giuseppe Culicchia nei suoi libri racconta dunque la realtà, l'incertezza, ma anche il sogno della letteratura che ti permette di volare lontano, anche da una possibile realtà in cui, tuo malgrado, sei finito. Ed è proprio questo, guardare alle storie minime, che fa di Culicchia uno scrittore di culto per un'intera generazione. Ma io la paura me la porterò nella tomba, perché semplicemente io ho lavorato 10 anni in libreria e lavorando in libreria o in biblioteca ti rendi conto di come sia vero quella famosa citatissima frase di Flaiano: successo participio passato di succedere, e soprattutto ti rendi conto di quanto sia difficile durare nel tempo, e che l'unico metodo di giudizio è il tempo proprio. E quindi se hai scritto qualche cosa che poi è capace di durare il tempo, allora sì, allora eri davvero uno scrittore. Ma se invece hai scritto una cosa che magari vende 2 milioni di copie, poi però dopo un tot di anni nessuno se ne ricorda più, allora le cose cambiano. Quindi secondo me, insomma, tutti quelli che fanno questo mestiere particolare, se vogliamo chiamarlo così, probabilmente dovrebbero andarsene da questa terra col dubbio, col rovello. Chissà, sono stato oppure no. Secondo me tantissimi di quelli che lo sono stati davvero se ne sono andati convinti di non esserlo. L'esempio più noto è Kafka. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo. La prima volta. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Facebook. Aprirvi un profilo e rispondere al questionario iniziale mettendo in rete una montagna di informazioni personali riservate, con tanto di foto e video. Rimpiangere di averlo fatto. Fallaci. La si usa in caso di attentati compiuti da terroristi arabi. Definirla la Cassandra dell'informazione. Inveire contro. Inveire contro chi inveisce contro. Vedi arabi, vedi Parigi. Fannulloni. Albergavano nell'amministrazione pubblica prima della nomina a ministro di un certo Brunetta. Ma i ministri passano, si sa. Questa era una lettura, un estratto dell'ultimo libro di Culicchia, Mi sono perso in un luogo comune. Un dizionario che descrive un paese, l'Italia, dove molto è ormai irrimediabilmente grottesco, fasullo, come certi amici su Facebook. Come dice lui stesso, l'ispirazione è quella di Gustave Flaubert. Mi dà l'occasione di parlare di un libro che amo molto, che è il Dizionario dei luoghi comuni di Flaubert. Un libro che io ho sempre ripreso in mano in tutti questi anni, perché mi divertiva sempre molto, perché ci ritrovavo davvero tutta la nostra stupidità. Molte volte noi siamo parlati anziché essere parlanti, e quindi a un certo punto ho avuto veramente voglia di, così, con una certa irriverenza nei confronti di un tale precedente, di scrivere a mia volta il mio dizionario dei luoghi comuni. E ci sono varie ragioni. Una è l'insofferenza, perché molte volte mi rendo conto, sfogliando i giornali o guardando i notiziari in TV, che veramente certe notizie, per come vengono date e la scelta delle notizie che viene fatta, così da ascoltatore, da lettore, trovo queste cose veramente insopportabili. E poi perché è pieno di luoghi comuni la nostra vita, non soltanto quando prendiamo il tram e ascoltiamo le conversazioni degli altri passeggeri, ma quando parliamo noi, quando ci ritroviamo a una cena tra sedicenti intellettuali o quando ce ne stiamo in coda al cinema e non viene McLuhan a dirci che avevamo ragione. E quindi sì, mi sono divertito molto a scriverlo, e ho cercato di metterci dentro tutto quello che mi colpiva da questo punto di vista, insomma. Senti, volevo farti una domanda invece più personale sulla tua vita. Cioè, tu hai molto Torino nella tua storia, cioè, non solo perché è la tua città natale, ma perché in qualche modo tu hai anche scelto di raccontarla, questa città. Perché? Ma perché io in realtà ho passato un'infanzia in campagna, in un piccolissimo centro di 900 anime a una ventina di chilometri da Torino, e venivo a Torino con i miei genitori soltanto il 2 novembre per andare al cimitero. E quindi per me Torino, per gli anni dell'infanzia, era davvero grigia e piovosa. La città dei morti. Piovosa, sì, sì, più grigia e piovosa del 2 novembre non c'era nulla. Dopodiché invece, quando ci sono tornato e mi ci sono stabilito, ho scoperto che era tutt'altro che quel 2 novembre lì. E quindi per me Torino è diventata Los Angeles, è diventata una metropoli tentacolare, piena di storie da raccontare, piena di voci, volti, capace sempre di sorprendermi. E allora è per questo che l'ho raccontata più volte. Poi tutte le volte che mi chiedono questa domanda, a dirti la verità, mi chiedo anche, ma glielo chiederanno anche a Paul Auster, perché racconti sempre New York, chissà. La tua famiglia invece com'era? Ma io sono figlio di un barbiere e di un'operaia tessile, che erano convinti che per i loro figli, io ho una sorella più grande di me, la scuola fosse l'unico mezzo per così avere qualche possibilità in più rispetto a quelle che avevano avuto loro nel futuro. E quindi tenevano moltissimo al fatto che andassimo bene a scuola. Mi leggevano un sacco di libri da bambino, molto prima che partisse un'iniziativa come Nati per Leggere, quella dell'Associazione dei Pediatri Italiani, che è un'iniziativa lodevolissima. Mi raccontavano un sacco di storie, e soprattutto io, appunto, crescendo in una casa povera, dove però i libri non mancavano, anche grazie al fatto che, appunto, avevo una sorella più grande, io ho sempre avuto questo grande amore per la lettura. I 3 mesi delle vacanze estive per me significava la libertà finalmente di poter leggere per conto mio quelle cose che non potevo leggere durante i mesi di scuola, perché dovevo leggere le cose che mi imponeva la scuola. E quindi niente, ogni volta che chiedevo un libro me lo compravano, e sono stato molto fortunato per questo, perché mi hanno veramente assecondato in questa mia passione, che poi poco per volta è diventata il tentativo di scrivere a mia volta, perché quando ho 12 anni ho letto per la prima volta Fiesta di Hemingway, mi si è aperto un mondo. Io leggevo da molto prima, mi ero innamorato di Mark Twain, Le avventure del Cadere Fine, avevo letto quei grandi classici tipo I Tre Moschettieri, L'Isola del Tesoro. Avevo snobbato clamorosamente Moby Dick perché all'epoca la storia della balena bianca non mi acchiappava, poi l'ho letto fortunatamente a 30 anni. E quando però ho letto Fiesta mi sono ritrovato a pensare che io quegli americani in vacanza tra Parigi e la Spagna li conoscevo, mi sembrava di averci intorno, vedevo le facce, li sentivo parlare. E lì per la prima volta ho capito la magia della letteratura. Poi naturalmente non mi sono messo a scrivere subito, è passato qualche anno, però ho passato tanti anni a cercare di riscrivere alcune storie di Hemingway, perché è stato il mio primo amore in assoluto, insomma. E ovviamente ho sempre fallito perché erano storie perfette, non si poteva riscriverle in nessun modo. La vita di Kulik, il ragazzo scoperto da Tondelli, che forse per primo ha raccontato una generazione di precari, è molto cambiata dai suoi esordi. Oggi la libreria di casa è piena di libri e riconoscimenti e lui, figlio, è diventato padre. Io ho due bambini, sì, uno di 3 e l'altro di 7 anni. E quanto ti influenzano loro nella scrittura? Per il momento mi influenzano molto nel raccontare storie orali, perché sono affamati di storie, e questo credo che dipenda dal fatto che poveracci sono nati appunto con il padre, così, quindi, come dire, mi viene abbastanza naturale. E però loro ogni volta chiedono di più, quindi a un certo punto io mi trovo in serie difficoltà, perché alla 20ª storia consecutiva sul mio gatto grigio che avevo da bambino anch'io, mi faccio compiere avventure mirabolanti, totalmente incredibili, su cui loro credono, perché evidentemente so mentire bene, mi trovo un po' in difficoltà. Dopodiché quello che mi piacerebbe, ovviamente è una cosa che prima a cui non pensavo, a me piacerebbe riuscire a scrivere delle cose per cui un giorno, come si dice, quando non ci sono più, loro possono prendere questi libri in mano, leggerli e dire: ah, ma guarda un po', papà. Poi non lo so, poi magari non mi leggeranno, leggeranno altro, non leggeranno nulla, va a sapere. Però tu quando scrivi hai coscienza di avere due figli e quindi te lo dici in qualche modo: voglio portare a termine, voglio essere anche mentre scrivo padre, comunque portare avanti questo mio progetto di vita? Ma sì, da quando li ho sì, devo ammetterlo. Anzi, il primo libro che ho scritto dopo l'arrivo del primogenito, che è stato Sicilia o Cara, è stato un libro totalmente pensato per lui. I went down to the place where I knew she lay waiting. La prima volta termina qui. Vi lasciamo in compagnia di Leonard Cohen e se volete riascoltarci ci trovate sulla pagina di Radio 24 oppure venite a dire la vostra su Facebook Radio 24 - La prima volta. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. I wanted the night to go on and on, but she said, go back to the world. We were fighting in Egypt when they signed this agreement that nobody else had to die. There was this terrible sound, my father went down with a terrible wound in his side. He said, try to go on, take my books, take my gun, remember my son, how they lied. And the night comes on, it's very calm. I'd like to pretend that my father was wrong, but you don't want to lie. Not to the young. We were locked in this kitchen, I took to religion, and I wondered how long she would stay. I needed so much to have nothing to touch. I've always been greedy that way. But my son and my daughter climbed out of the water, crying, "Papa, you promised to play." And they lead me away to the great surprise. It's "Papa, don't peek, Papa, cover your eyes." And they hide